Stavo per uscire dal salotto con l'idea di chiamare qualcuno e, se non ci fossi riuscito, di ritrovare la strada sino alle anticamere e di farmi aprire, quando, mentre alzatomi in piedi muovevo qualche passo sul pavimento di legno mosaicato, comparve un cameriere dall'espressione preoccupata. «Il signor barone ha avuto appuntamenti sino ad ora», mi disse. «Ci sono ancora parecchie persone che l'aspettano. Farò tutto il possibile perché riceva il signore. Ho già fatto telefonare 2 volte al segretario». «No, non vi disturbate. Avevo un appuntamento col signor barone, ma è già molto tardi e, visto che stasera è occupato, tornerò un altro giorno». «Oh no, il signore non se ne vada!» esclamò il cameriere. «Il signor barone potrebbe esserne scontento. Tenterò di nuovo». Ricordai quel che avevo sentito raccontare dei domestici del signor di Charlieu e di quanto fossero devoti al loro padrone. Non si poteva certo dire di lui, come del principe di Conti, che cercasse di piacere al cameriere come al ministro, ma era così ben riuscito a trasformare ogni sua minima richiesta in una specie di favore che, quando di sera, con tutti i camerieri radunati a rispettosa distanza intorno a lui, egli, dopo averli passati in rassegna con lo sguardo, diceva «Coignet, la candela!» oppure «Ducré, la camicia!», gli altri si ritiravano con un borbottio di invidia, gelosi di quello su cui era caduta la scelta del padrone. 2, anzi, che si detestavano, cercavano di contendersi l'un l'altro il favore, presentandosi al barone, se era già salito in camera, con i più assurdi pretesti, nella speranza di essere investiti, per quella sera, dell'incarico della candela o della camicia. Se rivolgeva direttamente la parola a uno di loro per qualcosa che non riguardasse il servizio, peggio ancora se d'inverno, in giardino, sapendo che uno dei cocchieri era raffreddato, dopo una decina di minuti gli diceva «Copritevi!». Gli altri non parlavano più all'eletto per 15 giorni, gelosi della grazia che gli era stata concessa. Aspettai ancora 10 minuti e poi, dopo avermi raccomandato di non trattenermi troppo a lungo perché il signor barone, stanco, aveva dovuto congedare parecchi personaggi tra i più ragguardevoli, sebbene avessero preso appuntamento da giorni e giorni, mi introdussero da lui. Questa messa in scena intorno al signor di Charlieu mi pareva improntata ad assai minor grandezza rispetto alla semplicità di suo fratello Germant. Ma già, apertasi la porta, avevo scorto il barone, in veste da camera di seta cinese, a collo scoperto, disteso su un canapè. Fui colpito nello stesso istante dalla vista di uno scintillante cappello a cilindro posato su una sedia, insieme a un cappotto foderato di pelliccia, come se il barone fosse appena arrivato da fuori. Il cameriere si ritirò. Pensavo che il signor di Charlieu mi sarebbe venuto incontro. Senza fare un solo movimento, mi fissò con occhi implacabili. Mi avvicinai, lo salutai. Non mi tese la mano, non mi rispose, non mi invitò a prendere una sedia. Quasi subito gli chiesi, come a un medico maleducato, se era necessario che rimanessi in piedi. Lo avevo detto così, senza cattive intenzioni, ma l'espressione di collera fredda dipinta sul volto del signor di Charlieu si fece ancora più minacciosa. Ignoravo, d'altronde, che nella sua dimora di campagna, al castello di Charlieu, il barone avesse l'abitudine, tanto gli piaceva recitare la parte del re, di sprofondarsi dopo pranzo in una poltrona del fumoir, lasciando gli invitati in piedi intorno a lui. All'uno chiedeva del fuoco, all'altro offriva un sigaro, poi, passato qualche istante in silenzio, diceva «Ma, caro Argencourt, sedetevi, vi prego, prendete una sedia», eccetera, pago d'aver dimostrato, lasciandoli in piedi per un po', che era lui a dare il permesso di sedersi. «Mettetevi nella poltrona Luigi XIV», mi disse infine con aria imperiosa e più perché mi allontanassi da lui che per invitarmi a sedere. presi una poltrona che era lì accanto. «Ah, ecco che cos'è per voi una poltrona Luigi XIV. Vedo che siete un giovanotto istruito!» esclamò in tono di derisione. Ero talmente stupefatto che non mi mossi né per andarmene come avrei dovuto né per cambiare poltrona come lui voleva. «Signore», mi disse, pesando a uno tutti i termini, ai più impertinenti dei quali premetteva un doppio paio di consonanti. «L'incontro che ho consentito a concedervi, su preghiera ad una persona che desidera non essere nominata, costituirà l'atto finale dei nostri rapporti. Non vi nasconderò che avevo sperato di meglio. Forzerei forse leggermente il senso delle parole, cosa che non si deve mai fare, nemmeno con chi ne ignora il valore per semplice rispetto di se stessi. Se vi dicessi che avevo avuto per voi una qualche simpatia, ritengo semmai che benevolenza, nel suo significato più efficacemente protettivo, non andrebbe al di là di ciò che provavo né di ciò che mi proponevo di manifestare. Appena tornato a Parigi vi avevo fatto sapere, voi eravate ancora a Balbec, che potevate contare su di me». Ricordando con che scenata il signor di Charlieu si era separato da me a Balbec, abbozzai un gesto di diniego. «Come?» sbottò incollerito, e quel viso pallido e convulso differiva dal suo solito viso quanto il mare in un mattino di tempesta in cui, invece della consueta, ridente superficie, si scorgono mille serpenti di schiuma e di bava. «Come? Osate sostenere di non aver ricevuto da parte mia il messaggio, quasi una dichiarazione che dovevate ricordarvi di me? Che cosa c'era come decorazione sulla rilegatura del libro che vi ho fatto avere?» «Dei bellissimi intrecci storiati», risposi. «Ah!» replicò Charlieu in tono sprezzante. «I giovani francesi conoscono ben poco i capolavori del nostro paese. Cosa pensereste di un giovane berlinese che non conoscesse la Valchiria? E del resto, bisogna proprio che i vostri occhi siano fatti per non vedere, giacché mi avete detto di esserci stato davanti a quel capolavoro non meno di 2 ore. Vedo che non vi intendete di fiori più che di stili. Quanto agli stili, non azzardatevi a protestare», gridò con voce resa stridula dalla rabbia. «Non sapete nemmeno dove vi sedete. Offrite al vostro di dietro una chaffeuse direttorio anziché una bergère Luigi XIV. Uno di questi giorni scambierete le ginocchia di Madame de Villeparisis per il gabinetto e chissà che cosa ci farete. Similmente, nella rilegatura del libro di Bergotto non avete neanche riconosciuto l'architrave di Mio Sotidi della chiesa di Balbec. C'era forse modo più limpido per dirvi «non vi scordate di me»?» Guardavo il signor de Charlieu. Certo, la sua testa, magnifica e ripugnante, prevaleva comunque su quelle di tutti i suoi. Lo si sarebbe detto un Apollo invecchiato, ma un succo olivastro, epatico, sembrava sul punto di colare dalla sua bocca malvagia. Quanto all'intelligenza, non si poteva negare che la sua spaziasse con ben altra apertura su molte cose destinate a restare per sempre ignote al duca di Guermantes. Ma per quanto colorasse di belle parole tutti i suoi risentimenti, si capiva che, sebbene a muoverlo fosse a volte l'orgoglio ferito, a volte un amore deluso, un rancore, un'idea fissa della dispettosità, del sadismo, quell'uomo era capace di uccidere e poi di dimostrare, a forza di logica e di eloquenza, che aveva avuto ragione a farlo e che non per questo cessava d'essere di 100 cubiti superiore a suo fratello, a sua cognata, eccetera, eccetera. «Come nelle lance di Velázquez», continuò, «il vincitore s'avanza verso il soggetto più umile, e come dovere d'ogni nobile, poiché io ero tutto e voi non eravate niente, sono stato io a muovere i primi passi verso di voi. Avete risposto da sciocco a quello che non sta a me definire un atto di grandezza, ma non mi sono lasciato scoraggiare. La nostra religione predica la pazienza. Di quella che io ho avuto con voi mi sarà tenuto conto, spero, nonché d'essermi limitato a sorridere di qualcosa che potrebbe essere tracciato d'impertinenza, se foste all'altezza d'averne verso chi vi sovrasta di tanti cubiti. Ma alla fin fine, signore, di tutto ciò non è più questione. Vi ho sottoposto a quella che il solo uomo eminente del nostro mondo chiama acutamente la prova dell'eccessiva gentilezza, definendola buon diritto la più terribile di tutte, perché l'unica in grado di sceverare il grano dall'olio. Esito a rimproverarvi d'averla fallita, giacché sono ben rari coloro che la superano. Ma almeno, ed è questa la conclusione che pretendo di trarre dalle ultime parole che scambierò con voi nella mia vita, voglio pormi al riparo dalle vostre invenzioni calunniose. Non avevo considerato sino a quel momento che a provocare la collera del signor di Charlieu potesse essere stato un discorso irriguardoso che qualcuno gli avesse riferito. Interrogai la mia memoria. Non avevo parlato di lui con nessuno. Qualche malintenzionato doveva averlo inventato di sana pianta. Protestai di non aver mai detto nulla che lo concernesse. Non penso di avervi potuto offendere dicendo a Madame de Guermantes che ero in relazione con voi. Sorrise sdegnosamente, fece salire la voce sino ai registri più acuti e là, attaccando con dolcezza la nota più stridula e insolente, «Oh no, signore!» disse, tornando con estrema lentezza a un'intonazione naturale e come affascinato di passaggio dalle bizzarrie di quella gamma discendente. «Fareste torto a voi stesso accusandovi d'aver detto d'essere in relazione con me. Non m'aspetto certo una grande precisione verbale da uno che prenderebbe facilmente un mobile Chippendel per un pulpito rococò. Ma nonostante tutto, non penso», aggiunse con carezze vocali sempre più beffarde che lasciava ondeggiare sulle labbra sino a un incantevole sorriso. «Non penso che abbiate detto né creduto di essere in relazione con me. Quanto al vantarvi d'essermi stato presentato, d'aver parlato con me, di conoscermi un poco, d'aver ottenuto quasi senza doverla sollecitare la possibilità d'essere un giorno il mio protetto, trovo invece del tutto naturale e intelligente che l'abbiate fatto. L'estrema differenza d'età che esiste fra di noi mi permette di riconoscere, senza incorrere nel ridicolo, che quella presentazione, quegli scambi di parole, quel vago inizio d'un rapporto erano per voi, non sta a me dire un onore, ma quantomeno, ecco, un vantaggio che trovo sciocco da parte vostra non già aver divulgato, ma non aver saputo conservare. Aggiungo anzi, continuò, passando bruscamente per un istante dalla collera altera a una dolcezza talmente intrisa di tristezza da farmi credere che stesse per piangere. Aggiungo che quando avete omesso di rispondere alla mia proposta, fatta qui a Parigi, mi è sembrato talmente inaudito da parte di un giovane come voi, in apparenza ben educato e di buona famiglia borghese. Solo su questo aggettivo la sua voce emise un leggero sibilo di impertinenza, che commisi l'ingenuità di pensare a tutte quelle sciocchezze che non succedono mai, alle lettere smarrite, agli indirizzi sbagliati. Riconosco che è stata da parte mia un'ingenuità grave, ma San Bonaventura preferiva credere che un bue potesse volare piuttosto che un suo confratello potesse mentire. Ma tutto ciò appartiene ormai al passato. La cosa non vi è piaciuta, non se ne parli più. Mi sembra solo che avreste potuto. E c'era veramente del pianto nella sua voce. Fosse pure per semplice rispetto alla mia età, scrivermi due righe. Avevo concepito per voi cose infinitamente seducenti che mi ero ben guardato dal dirvi. Avete preferito rifiutare senza sapere a far vostro. Ma, come dicevo, si può sempre scrivere. Al posto vostro e anche al mio io l'avrei fatto. Per questo preferisco il mio al vostro. Dico per questo, perché sono convinto che tutti i posti siano uguali e ho più simpatia per un operaio intelligente che per diversi duchi. Ma posso affermare di preferire il mio posto perché in tutta la mia vita, che comincia ad essere abbastanza lunga, so di non aver mai fatto ciò che avete fatto voi. La sua testa, voltata, rimaneva in ombra. Non potevo vedere se i suoi occhi versassero le lacrime che la sua voce sembrava implicare. Come vi dicevo, ho fatto 100 passi verso di voi, con l'unico risultato di farvene fare 200 all'indietro. Adesso sta a me allontanarmi e non ci conosceremo più. Non ricorderò il vostro nome, ma il vostro caso, affinché, quando sarò tentato di credere che gli uomini abbiano un po' di cuore, di cortesia, o semplicemente l'intelligenza di non lasciarsi sfuggire un'occasione senza pari, mi ammonisca che, valutandoli così, li metto troppo in alto. No, che abbiate detto di conoscermi quando questo era ancora vero, perché adesso sta per non esserlo più, posso solo trovarlo naturale, lo considero come un omaggio, cioè come una cosa gradevole. Disgraziatamente altrove e in altre circostanze avete pronunciato parole ben diverse. Signore, ve lo giuro, non ho detto nulla che potesse offendervi. E chi vi ha detto che io ne sia offeso? Esclamò Charlieu in un accesso di furore, rialzandosi impetuosamente dalla chaise longue dove fino a quel momento era rimasto immobile, mentre i lividi serpenti schiumosi del suo volto si increspavano e la sua voce si faceva, volta a volta, acuta o grave come una tempesta assordante scatenata. La forza con cui parlava abitualmente e che già per strada faceva voltare gli sconosciuti era centuplicata come un forte sé anziché al piano viene suonato dall'orchestra trasformandosi per di più in fortissimo. Il signor di Charlieu stava urlando. «Pensate di essere all'altezza di potermi offendere? Non sapete dunque a chi vi rivolgete? Credete che la saliva infetta di 500 omuncoli vostri pari, appollaiati uno sull'altro, riuscirebbe anche solo a inumidire i miei augusti alloci?»